Euroreportage. Nel cuore del calcio europeo, di Dario Ricci. Regia di Peter Bescapè. Però è incredibile come cosa, vero? 60.000 persone che ti guardano, applaudono, gridano il tuo nome. Fa paura. Tu avevi paura? Sì. Ma quando mai? Paura che potesse finire. Mi piaceva sorprendere gli spettatori. Ogni volta, in ogni partita, io cercavo di fargli un regalo. Qualche volta non mi riusciva, ma quando succedeva... ci rimaneva dentro per sempre. Sì. Eh sì, lo avrete riconosciuto, è un passaggio di Il mio amico Eric, il film di Ken Loach, con protagonista l'ex stella del Manchester United, della nazionale francese, Eric Cantona, idolatrato al punto da apparire in sogno o quasi in carne ed ossa all'umile operaio tifoso dello United che è al centro della vicenda. Passione, amore, tifo, ma anche appartenenza, radici, territorio, identità, cultura. Tutto questo e molto di più forse è una squadra di calcio, infatti. E i tifosi, la parte sana del tifo, ovviamente, ne sono il cuore, il motore primo. Tanto che in ogni parte d'Europa i tifosi si stanno aggregando e tentano ora di entrare nella stanza dei bottoni dei club per cui tifano, nei consigli d'amministrazione, per prendere parte ai processi decisionali della società, al di là che i capitali vengano poi messi da questo o quel magnate. Sì, perché se il calcio è cultura, come è, non può essere proprietà esclusiva di chi pure ci mette i soldi. È una proprietà sempre parziale, da condividere con chi con quella maglia e quella bandiera si identifica, si riconosce e da quei simboli e quei colori è rappresentato. Come ci spiega Gianluca Monte, componente dell'Unità Sport della Commissione Europea. Sicuramente la filosofia di base è che il coinvolgimento dei tifosi, dei fan, migliora il processo, diciamo, democratico e anche di attivazione della società civile. Diciamo, il calcio è un settore particolare, i tifosi sono considerati generalmente, diciamo, più che semplici consumatori di un prodotto, sono appunto dei fan, sono persone che si affezionano ad una squadra e chiaramente pagano poi biglietti di entrata agli stadi o abbonamenti per vedere partite della squadra in televisione, ma diciamo va al di là dell'aspetto commerciale, proprio l'aspetto di identità, di coinvolgimento a livello locale di tutta una fetta della popolazione. Ed è importante questo legame tra una squadra e il suo bacino di utenza. Nasce così Support Direct Europe, la rete europea che unisce i cosiddetti trust di tifosi, cioè quei gruppi di fan che tramite azionariato popolare o altre forme giuridiche stanno divenendo sempre più parte attiva nella gestione dei club per cui tifano. Si parla di partecipazione popolare alla gestione del fenomeno calcio, quindi, e allora tutti a pensare alla Spagna dei tanto decantati club di soci come Barcellona e Real Madrid. Ma Diego Riva, consulente legale di Supporters Direct Europe, chiarisce che anche il modello iberico ha i suoi paradossi. Quando si pensa alla partecipazione dei tifosi viene immediatamente spontaneo il riferimento a modelli quale Barcellona e Real Madrid. C'è da chiedersi però se è vera partecipazione, la partecipazione dei tifosi che si trovano ad avere poche scelte, perché si tratta di scegliere tra chi ha delle disponibilità economiche significative per sostenere determinati modelli di business del calcio. Quello che osserviamo è che in Spagna, dove i tifosi hanno istanze molto simili a quelle italiane, le istanze di partecipazione paradossalmente, certo, ci sono in questi grandi club, ma ci sono soprattutto in quei club che non si sono salvati dalla trasformazione da associazioni attualmente ancora possedute da tutti i tifosi in società di capitali, in cui i tifosi recriminano e pongono l'istanza di avere una voce in capitolo nei processi decisionali del calcio. Ti ricordi di Sunderland? Ah, che cosa meravigliosa! Magnifique! Una specie di balletto, una danza. E ha fatto tirare avanti per mesi quel gol. Scusa, tra due difensori, McLaren, ora Cantona. Se la rete dei supporters è nata a inizio anni 2000 in Gran Bretagna e conta ormai circa 200 trust nel solo Regno Unito, il modello di riferimento più affidabile sembra ora quello austriaco-tedesco. Nella Bundesliga i supporter dell'Hamburgo, ad esempio, sono pienamente inseriti nella governance e nella gestione quotidiana del club. In Austria è emblematico il caso del Wacker Innsbruck. Dopo il fallimento della società, i tifosi si sono opposti al progetto di alcuni imprenditori che volevano stravolgere simboli e tradizioni del club e hanno avuto la meglio imponendo un progetto di sviluppo condiviso, come testimonia Thomas Gasler, responsabile dei supporter trust austriaci e tifoso del Wacker Innsbruck. Nel 2002 siamo falliti con debiti di 60 milioni euro. Abbiamo vinto 3 scudetti nel 2000, nel 2001, nel 2002. Ma dopo il fallimento abbiamo dovuto ricominciare proprio in terza categoria, senza i soldi, senza staff. Infatti la politica ha deciso che il nuovo club deve essere un'associazione sportiva con i membri, perché i membri sono quelli che fanno l'organo di controllo del club. E questo era una grande cosa nuova, perché il club prima non era un'associazione per i membri. E così dal 2003-2004 è stato possibile per i tifosi di partecipare nel club. Tante le attività in cui ora i tifosi del Wacker Innsbruck sono coinvolti. Abbiamo la possibilità che 2 persone dei tifosi sono nella rappresentanza del club, abbiamo la possibilità che lavoriamo nel club management, noi tifosi facciamo il sito internet per il club, noi tifosi facciamo il merchandise per il club. Tutto insieme, tutto senza fare i soldi per noi, siamo volontariati per il club. Così c'è l'identificazione enorme. Gli obiettivi? Continuare a crescere, ovvio, ma intanto bisogna evitare la retrocessione, scherza Gasler. Quest'anno abbiamo il centenario, 100 anni Wacker Innsbruck, purtroppo siamo quasi all'ultimo posto, quindi il nuovo obiettivo è non retrocedere in Serie B, rimanere in Serie A. E continuare la nostra strada, perché siccome 10 anni sono passati dopo il fallimento è sempre un po' difficile di avere sponsor, e così abbiamo ancora dei problemi per combattere in Serie A con una squadra qualitativa. Inghilterra culla del football, come sappiamo, ma culla anche dei supporters trust, come testimonia Amanda Wilcox, collaboratrice di Supporter Direct Europe e docente di storia inglese alla John Cabot University di Roma. Veramente ci sono parecchie, di tutti i livelli del calcio, e in generale come movimento è stato creato anche tramite la volontà del governo inglese, perché ci sono state talmente tante crisi, fallimenti di club, anche dei club abbastanza grandi, importanti, per esempio il Portsmouth, per citarne solo uno, o il Wimbledon, che il governo ha voluto creare questo o sostenere questo progetto, capendo un po' che il sistema non funzionava, diciamo così, a tutti i livelli. E dal Regno Unito arriva anche la storia di maggior successo per una squadra co-gestita direttamente dai fan. I gallesi dello Swansea, gestiti al 20% dai loro tifosi, hanno conquistato quest'anno la Coppa di Lega. Ancora Amanda Wilcox. Questo è un bellissimo esempio. Anche fino a un paio di anni fa nessuno sapeva come poteva andare a finire, che se poteva anche finire in un disastro. Invece loro fanno vedere che può funzionare anche sul campo, diciamo, lo spinto dei tifosi, il coinvolgimento e anche la trasparenza, non è solo per i piccoli società che poi non riescono a vincere niente. E in Italia il fenomeno sta prendendo piede e non mancano esempi sorprendenti, da Arezzo a Piacenza, da Ancona a Taranto a Venezia. In Italia si osserva un'interessante vivacità negli ultimi anni. Quando il progetto europeo è iniziato 5-6 anni fa, nessuno avrebbe scommesso su una possibile possibili gruppi di tifosi che in Italia si ponessero queste istanze di un diverso ruolo dei tifosi nel sistema complessivo calcio. Invece i fatti hanno fortunatamente smentito queste previsioni, perché in realtà dal 2009-2010 vi sono più una decina di gruppi di tifosi che si sono organizzati per poter porre queste istanze. Club delle più diverse divisioni, dalla Serie A per esempio come Roma, fin dalla terza categoria, l'esperienza dell'anno scorso di Aquilotto Cavese. Le diverse realtà scontano chiaramente difficoltà culturali, di percorso, storiche, economiche diverse dagli altri paesi. Cito due casi emblematici per i risultati raggiunti grazie anche sia alla bravura, alla testardaggine e alla competenza dei tifosi, ma anche per questioni storico e fattuali che sono verificati, come Ancona Taranto, in cui i tifosi hanno conquistato non solo una quota di capitale sociale, ma anche il diritto, che non dipende dalla quota di capitale sociale posseduto, di avere due rappresentanti nel consiglio di amministrazione proprio come amministratori della società di calcio, e diritto di veto su alcune scelte fondamentali che vanno al cuore della passione, che sono marchio, sede sociale e colori della propria società di calcio. Insomma, nel calcio del fair play finanziario, dei petrodollari arabi, degli scandali e della minaccia rappresentata dalle scommesse illegali, c'è anche un sentiero che porta direttamente la parte sana del tifo nel cuore del sistema. E in futuro l'obiettivo, anche per la Commissione europea, è crescere attraverso il dialogo e l'armonizzazione di contesti socio-economici diversi da paese a paese, conclude Gianluca Monte. Il nostro ruolo è soprattutto quello di cercare di portare avanti degli scambi, per esempio, ecco, di buone prassi. Quello che si fa in un paese che porta buoni frutti possa essere replicato con le dovute cautele, con il rispetto delle diversità culturali e tradizioni, anche in altri paesi. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.